Il conte è svergognato. Ma non è castigato quanto colui ne degno. E che vorreste fargli di peggio? Un mio bizzarro umore adesso mi consiglia. Anche la vuol di non darli mia figlia. Se a fare questa vendetta mi credesse capace, sempre qui ci son io. Non mi dispiace. Andrò girando il mondo, e meglio di nessuno forse farò fortuna. In ogni caso della bottega mia son tali frutti, che sempre poi c'è da mangiare per tutti. Non si opporrà, io lo spero, e tanto è la mi stima che a dir di sì certo sarà la prima. Si preparano presto i sponsali a son di pippari, a son di nacchere, fra canti e balli la sposerò. Son sicurissimo, son contentissimo, son sicurissimo, che bella moglie presto avrò. Che bella moglie presto avrò, sì, presto avrò, ah sì, presto avrò. Via si preparino presto i sponsali, a son di pippari, a son di nacchere, tra canti e balli la sposerò. Sicurissimo, contentissimo, che bella moglie presto avrò, che bella moglie presto avrò, sì, presto avrò. Da voi venivo appunto. E che volete? Compier le mie vendette. Orché colui verrà forse a pregarvi che la scrittura sua li sia serbata, par che ad altri vi trovi egli sposata. E lo sposo dov'è? L'ho già trovato, ne vi dispiacerà. S'io l'indovino. Forse qualche villano. No, il ballerino. È davvero un piacere. Glielo farò vedere a quell'ingannatore. Mi piace assai di camminare il mondo, e più d'una bottega all'umor mio conviene di farmi idolatrar sopra le scene. Ballerina, madamina. servitori, protettori, batti mani regaletti. Che piacer questo sarà, che piacer questo sarà. Già mi pare divertare, madamina, ballerina, dietro all'ora e bottiga. Che piacer questo sarà, che piacer questo sarà, che piacer questo sarà, che piacer questo sarà. Vieni a tempo, Dorina, per sentir la novella che al conte gliela fo come si deve. E quando men l'aspetta, tu un altro ad a sposar la mia Lisetta. Tanto meglio per me, mi ne consolo. Così resterà solo quel cavalone. E tu trova Cicala, fa ch'al più presto anche sia tuo marito. Onde resti colui per sua sfortuna, di tre che ne volea, senza nessuna. Sin de ti la bocca, che niente li tocca, quel ponte del fumo, marchese lunario, che bene li sta. Che vada, che corra, sin te perde il fiato, che già l'ho mandato, e torno a mandarlo, dove andalle carlo, se il vado farà. Si metti la bocca, che bene li sto. Si metti la bocca, che bene li sto. Che bene li sto, che bene li sto. Posso di meglio ci provare nel caso mio, e già che viene il conte più non lo tengo a bada, ma sposare io mi fo prima che vada. Ecco quella crudele, ma vo star sulla mia più che non stima. Qui bisogna per forza esser la prima. Già mi guarda l'ingrata magravità. Che bel momento, amico. Amico, con chi parli? A voi lo dico. Piano e più con le buone, di non tornar mai più troppo incapace, io cederò, perché costei mi piace. Che volete da me? Farvi vedere che voi non meritate le nozze mie, ma pur chissà, vedremo. Tempo pensarci io chiedo, ma troppo v'amo ancora. Io non la credo. Il petto e vedi prima. ci trovi in seno il cor, in seno il cor, in seno il cor. Sta bene, ma meglio io ne starò. Zitto, che viene. Qui ti volevo amico, eccoti in pezzi la tua scrittura e va. Lisetta è sposa. Madama non ti vuol, Dorina anch'ella la vogliam con cicala accompagnata. Troppo tardi davvero. Non me ne importa nulla, io lo sapea, e qua per dirlo io venni. ne manderem le nuove alla contea. Così non c'è rimedio a quel che è fatto. Siamo impazziti assai dietro a quel matto. Se pazzo io son, godete quello che getto via, ma inchine da gettar bella pazzia. Non più parole insomma. Fatti, Elisetta io sposo. Ma io questo che niente, ed io resterò sola. Di sposarvi io vi do qualche parola, perché tre donne in lega mi faran più avventori alla bottega.